itinerario di inserimento lavorativo di Diversamente Abili relativamente a quel progetto che presentò Pino Soprano. Non so se vi ricordate, quello della videosorveglianza. Teresa, Teresa, perdonami. No, ti volevo dire questo, siccome che se in sintesi abbi pazienza, perché io adesso ho controllato e praticamente non era partita la videoregistrazione. Puoi brevemente in sintesi ricapitolare questi punti? Abbi pazienza, non mi dire niente, perché altrimenti non li riusciamo a far sentire. Ti chiedo scusa. Oh, ma vabbè, allora praticamente lo scopo di questa Skype conference di oggi, preventiva all'incontro con i portavoce regionali di lunedì 23, era relativo alla presentazione di alcune domande che però già sono state inviate ai portavoce, al fine di evitare che poi ci dovesse essere un incontro per la presentazione delle domande e un successivo incontro per poi valutare le risposte. Quindi noi gliele abbiamo mandate 15 giorni fa, condividendole nel gruppo della disabilità chat. E queste domande praticamente erano tutte quante orientate al problema delle barriere architettoniche. Perché la prima era praticamente la disponibilità di fondi che tutt'oggi sono presenti, diciamo, nel bilancio della Regione Campania, per poter capire realmente i fondi destinati alla disabilità e anche ripartiti tra i vari comuni. La seconda era se era stato predisposto un piano, cioè una mappatura delle difficoltà della Regione Campania in merito alle barriere architettoniche per poter predisporre dei progetti POR, FEDER e POR relativi ai fondi europei, sia per quanto riguarda gli enti locali che per la progettualità privata. Poi la cosa, diciamo, che secondo me sta più a cuore, facendo, diciamo, un ragionamento con il comune di Torino, dove l'attuale candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, quando era consigliere comunale, propose una mozione in cui mise in mora il comune di Torino relativamente all'adeguamento del piano PEPA relativo all'articolo 32 della legge 41 dell'86 e l'articolo 24,9 della legge 104 del 92. Ora la domanda che sovviene per il portavoce è: questa mozione potrebbe essere presentata dai 7 consiglieri portavoce del Movimento 5 Stelle che copre tutto il territorio campano, oppure queste mozioni facendo capo al Comune di Torino devono essere presentate a ciascun comune e quindi ognuno di noi come portatore, diciamo, di un comune dobbiamo fare questa mozione all'interno dei propri comuni, cioè noi a Napoli, Angelo a Terzigno, a Orfeo a Torre Annunziata e quant'altro, per esempio, che era a Calcomi, a Sant'Antonio Abate, dove sta? Sì, noi... sì, Francesco Condosta a Sant'Antonio Abate. Quindi se ognuno di noi poi doveva presentare questa mozione al proprio comune, oppure poterlo fare come mozione unica al Consiglio regionale. E ultima domanda, praticamente era relativa alla specificità dei fondi destinati all'inserimento lavorativo di diversamente abili relativamente al progetto di videosorveglianza che presentò al tavolo della disabilità Pino Soprano. Diciamo che queste domande loro già le hanno avute 15 giorni fa, quindi credo che dalla web conference di lunedì dovrebbero essere comunque in grado di darci delle risposte per poi diciamo decidere fattivamente poi che cosa fare, cioè passare da un piano, diciamo, utopico a un piano pratico. Che ne dite? Certo. No, per me, diciamo... Posso? Prego, prego. Vai. Teresa, questa mozione presentata a Torino, poi come si è sviluppata? Assolutamente niente, però nel frattempo, una volta che tu metti in mora il comune, vabbè, ma poverina, la candidata che l'ha presentata in realtà poi è andata un poco, tra virgolette, contro se stessa, perché adesso se viene eletta sindaco, quella mozione presentata da se stessa va che... Però, il che significa che comunque ci sarà l'inizio veramente di un ragionamento sano, perché giustamente se loro hanno presentato questa mozione sicuramente avevano un'idea di come abbattere le barriere architettoniche di Torino. No, ma a parte l'idea, Teresa, come è stato messo in mora il comune? Ma a parte l'idea, il fatto di, diciamo, di questi piani PEBA è una legge a livello, diciamo, nazionale a cui i comuni si devono attenere, come posso dire? Cioè, quindi i comuni che fino ad adesso non hanno ottemperato, se vogliamo, stanno tutti quanti fuori norma, come posso dire? Però noi l'avevamo valutata questa cosa a gennaio, cioè Sì. praticamente per tutte le costruzioni successive al 92 ci sono state comunque delle deroghe degli stessi enti locali e dello Stato che ha permesso poi di costruire nonostante tutto senza il rispetto di questa legge. Ho Quindi per capito. quanto loro siano, tra virgolette, in mora, comunque si è permesso di costruire secondo sempre dei criteri lontani dal rispetto della disabilità. Perché Ho capito. dal 92 ad oggi non è che non sono state costruite scuole, non sono state costruite metropolitane, cioè se tu ragioni che la stessa metropolitana, cioè l'ultima di nuova generazione, ha le scale mobili e l'ascensore, ma non si può pensare che un disabile possa essere soggetto ad un aggeggio elettronico, perché se viene un terremoto e l'ascensore non è utilizzabile, come non è utilizzabile la scala mobile, il disabile che fa muore sotto le macerie. Cioè questa è la domanda più grande. E stiamo parlando di una metropolitana che è stata inaugurata 2 mesi fa a Napoli, non 2000 anni fa. Beh, Teresa, scusa, ma questa mozione era per quanto riguarda le barriere architettoniche? Sì, il piano PEBA. Cioè l'adeguamento di tutto il territorio nazionale all'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo previene il piano PEBA. In realtà non è stato Teresa, vuoi fatto. aggiungere a Fabio Vitrone? Se compare, aspettate. Se compare, fai aggiungere alla conversazione. Ernesto Arnone lo trovi sotto il nome della moglie, Severina Terracciano. Non ci vedo, però io Dici Vittorio? vedo che hai messo una fotografia. Ma chi io? Ha messo il cavallo, ma tu hai messo una fotografia. No, il cavallo l'ha messo Angelo Di Priscola. A proposito, ma vediamo se lo sentiamo pure a lui, perché ho sentito la voce di Vittorio, di Antonio e di Teresa. Angelo, ci sei? Ci sono, mi senti? Ah, perfetto, no, in modo che ci sentiamo tutti quanti. No, vi sto sentendo solamente, diciamo, voi per quanto pensate di andare ancora avanti, ancora volete, sì. Come volete voi, ragazzi, per me non ci sono problemi. Adesso sono le 6, fin quando voi siete disponibili, non ci sono problemi. No, voi che no, mi hanno chiamato e dovrei avuto un messaggio sul telefonino, dovrei andare, volevo solamente capire una cosa. Dici, Angelo. Sentite. Non ti Non sento, posso Angelo. parlare. Vai, vai, vai, Angelo. Ah, ok. Niente, volevo sapere, vabbè, rispetto quindi all'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, già è stata fatta la richiesta, quindi loro adesso un po' di tutto hanno avuto le domande, quindi devono dare solo le risposte, giusto? Finito? Dovrebbero, almeno così diciamo, Sì. ci auguriamo. Ma ci deve rispondere solo Cirillo o anche altri? Ma Perché senti Angelo, io diciamo ho contattato Luigi, diciamo mi ha risposto lui, poi lui mi ha detto così che molto probabilmente avendo la disponibilità di potersi collegare direttamente diciamo dal Palazzo della Regione, quindi hanno anche la copertura per quanto riguarda la linea internet, cioè molto probabilmente forse magari insieme a lui ma sì, potrebbe starci adesso. Non so se verrà Michele, se verrà dici Teresa. mandato le domande, le ho mandate a Cirillo, Cammarano, tu le hai mandate a Malerba, io le ho mandate anche a Maria Muscarà, Ah. perché ci siamo parlate durante il funerale, dopo il funerale di Ho Giulio, capito. e gli ho fatto presente questa cosa e lei aveva piacere di sapere anche lei queste domande, se poteva si faceva un salto perché lei sapeva ancora che era al bar antico. Sì. Ah, Ma perché pensa, più bello sì, ma più bello, cioè, più sì, ma più bello, no, no, no, ma Teresa, io ho voluto attivare anche questo fatto, diciamo, di poterci sentire tramite, nonostante i problemi tecnici come li abbiamo potuti avere noi un poco stasera, però viste che le condizioni del meteo che non sono buone, tra l'altro ho anche pensato a voi che comunque stando da più lontano dovervi spostare con un'auto, venire insomma con il cattivo tempo, insomma non sarebbe stato proprio comunque l'ideale. Poi io a lui ho spiegato che comunque io proprio nel momento in cui piove ho proprio la difficoltà oggettiva comunque di scendere comunque o con la carrozzina manuale o con quella elettronica, per me sarebbe... Lui, devo dire la verità, diciamo, ha compreso subito, ha detto: Gianna, non ti preoccupare, dicevo questa cosa qua nel senso, perché tu comunque volevi un po' riprendere il fatto di andare, diciamo, di andare al bar, no? Però vista la situazione che si è venuta a creare, anche lui praticamente era contento di questo.